Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In ogni riga togliete una lettera della parola di sinistra e aggiungetela a quella di destra in modo da formare altre due parole di senso compiuto. Le lettere trasportate e riportate nelle parentesi, prese nel loro ordine, daranno il titolo di un romanzo di Calvino. L'enigmistica è l'arte di comporre enigmi per divertirsi da soli o come sfida con gli altri. Ma andando più a fondo, che cos'è un enigma? Principalmente una lotta, un braccio di ferro tra creatore e solutore. Il primo dà indicazioni oscure, ma il secondo ha la possibilità di trovare la soluzione attraverso l'ingegno. Non lasciatevi ingannare dal fatto che non ci abbiano ancora stancato. La storia di questi giochi parte da molto lontano. In principio era l'indovinello che corrisponde all'enigma classico. Si nasconde sotto un testo un significato ambiguo, ma che può anche celare simboli esoterici. Basti pensare ai famosi responsi degli oracoli, studiati minuziosamente in modo da voler dire sia una cosa che il suo opposto. L'indovinello più famoso dell'antichità è quello che la Sfinge pone a Edipo. Qual è l'animale che al mattino avanza con quattro zampe, a mezzodì procede con due e quando è sera cammina con tre? La risposta illuminata di Edipo, l'uomo, che intuisce il parallelismo tra i momenti della giornata e le tappe della vita, costringe la Sfinge a uccidersi. Non è il solo caso nella mitologia. La leggenda vuole che Omero sia morto per la vergogna di non avere saputo rispondere a un indovinello di un gruppo di pescatori di Ios. Nella tradizione latina, grande lustro hanno i giochi di parole. Tra palindromi e anagrammi spesso imperfetti, c'è perfino chi ha rielaborato Iliade e Odissea sotto forma di lipogramma, non usando cioè in ogni canto la lettera corrispondente dell'ordine alfabetico. Se già questa spiegazione vi sembra un enigma, ve lo sveliamo subito. L'esempio è che nel canto primo non si usi la lettera A, nel secondo la lettera B e così via. Stefano Bartezzaghi, semiologo ed enigmista, fa in proposito una precisazione. L'enigmistica, anche come parola, è una parola italiana. Non tutte le lingue, cioè, anzi, la maggior parte delle lingue non ha un equivalente a enigmistica, anche se ci sono dei giochi che sono diffusi in tutto il mondo, in particolare il cruciverba. Del Medioevo rimangono poche tracce scritte di enigmi, tranne il cosiddetto indovinello veronese. Si portava dietro i buoi e arava dei bianchi campi. Teneva un bianco vomere e seminava un nero seme. Che cos'è? La scrittura. Dove i buoi sono le dita, i bianchi campi le pagine, il vomere la penna d'oca e il seme nero l'inchiostro. Leonardo da Vinci, genio a tutto tondo, inventa un nuovo gioco, il rebus. E non contento, alcuni come suo solito li scrive a specchio. È l'inizio di un interesse tutto nuovo per gli enigmi, che diventano appannaggio di letterati e poeti. È datata 1538 la prima vera e propria raccolta, mentre qualche anno dopo Galileo si serve degli anagrammi per indicare la priorità delle sue scoperte di corpi celesti, ma senza il rischio di renderle pubbliche. Nel Settecento italiano l'interesse per gli indovinelli è sempre più florido e si rinnova attraverso la dilogia, vale a dire l'uso della stessa parola con due significati, uno poetico e uno relativo alla soluzione dell'enigma. Intanto in Francia nasce la charade, una piccola rivoluzione. Si passa da enigmi che raffigurano un oggetto a combinazioni di lettere. Certo, lo sono anche gli anagrammi, ma vengono ancora usati più per celare nomi e scoperte che a fini ludici. Esplode la moda delle serate a tema, descritte anche in La fiera delle vanità di William Thackeray. Charada, il mondo di Gozzano. Oh, le belle famiglie riunite nei salotti. Bottiglia di rosolio, il vaso dei biscotti, le con le figlie, gli abiti con le e qualcuno che suona un dolce. Queste parentesi del cuore sono segreti chiusi in te. Scelgo te. cancellate tutte le parole elencate, scritte in tutti i sensi, anche in diagonale. Le lettere restanti, prese nell'ordine, daranno il nome di una cantante. Bisogna aspettare il XIX secolo per le prime riviste di enigmistica. Ma mentre in Francia Le Magazine Enigmatique esce nel 1767, in Italia i rompicapi vengono ancora ospitati nelle ultime pagine degli almanacchi, raccolte annuali di informazioni inframmezzate da aneddoti. D'altra parte, ricorda lo studioso Stefano Bartezzaghi, i francesi e gli italiani non hanno mai avuto preferenza per gli stessi giochi. L'enigmistica ha delle forme che si ripetono, come anche il rebus, la charada, in diverse lingue, ma è praticata in modo sostanzialmente diverso. Per esempio in Francia c'è la contrepeterie, che è un gioco che è soprattutto orale, si fa parlando, mentre che è l'equivalente di quello che per noi è l'anagramma. Anche i francesi hanno i loro anagrammi, alcuni sono molto belli, ma è più tipico della Francia la contrepeterie. Presto la scuola italiana incomincia a primeggiare. Dal 1875 la gara degli indovini di Torino continua le pubblicazioni per 15 anni e arriva a tirare 10.000 copie. A dirla tutta, la qualità dei giochi è piuttosto bassa vista oggi, ma è importante perché segna la nascita della casta degli enigmisti, che si distinguono per abitudini tipiche come l'uso di uno pseudonimo, talvolta per occultare il loro lato ludico e altre volte per esaltarlo. Crittografie, parole angolari, incastri, cambi di antipodo, falsi cambi di genere. Con grandi salti di qualità, le riviste proliferano. I nomi sono degni del genio degli enigmisti. Demetrio Tolosani, detto Baiardo, fonda nel 1891 Diana d'Alteno. Poco dopo tocca alla Corte di Salomone e più tardi a Penombra. Ancora più folgorante è l'acronimo dell'associazione La Sfinge, società fra iniziati nei giochi enigmistici. Non è ancora il momento per il concorrente più spietato dei giochi tradizionali, il cruciverba, destinato a entrare in ogni casa, nel nostro immaginario e in quell'indimenticabile scena interpretata da Diego Abatantuono. 36, orizzontale a due lettere, attraversa Torino. Rappresentante, lo scrivo piccolo, ci sta. Rappresentante, te, beccate questo, va. Allora, 7 verticale. Incontrò Moser sul monte Sinai. Saroni. Matematica Saroni. 23 orizzontale. Appesantisce il guerriero. Brasato. Quando immagini brasato non riesco a chiudere occhi. A portare il cruciverba in Italia dall'America è stato il nostro primo protagonista di oggi. Nobile e illuminato e precursore dei tempi, è a lui che si deve niente meno che la settimana enigmistica. Il padre della rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione si chiama Giorgio Sisini. Giorgio Sisini. Sassari, nord-ovest della Sardegna, è la terra di molti personaggi illustri. Il pittore Mario Sironi, tra i fondatori del gruppo Novecento, il regista Antonello Grimaldi, e poi ancora la showgirl Elisabetta Canalis, la scrittrice Bianca Pizzorno, il giudice Santi Licheri. Ma soprattutto, da quella zona viene tantissima politica italiana degli ultimi decenni. Palmiro Togliatti, i presidenti Antonio Segni e Francesco Cossiga, poi Giuseppe Pisano, Arturo Parisi, e per finire Enrico Berlinguer, il cui nonno è il suo omonimo che fondò nel 1891 il quotidiano storico della città, La Nuova Sardegna. La famiglia Sisini, invece, nella quale Giorgio viene alla luce nel 1901, è di aristocratici possidenti terrieri. Grande tenuta ed ettari da coltivare sono la forza da mandare avanti tutti insieme, come da tradizione sarda, che anche oggi, ricorda il professor Roberto Boi, vede proprio nella famiglia la sua più grande risorsa. La caratteristica delle aziende sarde è quella di essere piccole aziende, per lo più a conduzione familiare. In Sardegna ci sono circa 60.000 aziende operative, professionali possiamo dire, e in queste la conduzione diretta del proprietario resta il modello prevalente. Infatti possiamo vedere dai dati anche che vengono pubblicati ogni anno dall'ISMEA che il proprietario dirige anche l'azienda per il 49% di queste e viene aiutato dalla famiglia per il 30% delle altre aziende. Per una piccola parte del lavoro viene svolto anche da salariati che possono essere a ventizio a tempo determinato. Il padre di Giorgio, Francesco Sisini, conte di Sorso, è un illuminato. In un'epoca in cui pochissimi arrivavano a diplomarsi e ancora meno riuscivano a iscriversi all'università, aveva messo poche cose essenziali nella sua valigia ed era partito alla volta di Milano, dove si sarebbe laureato al Politecnico. Una volta ritornato a casa, si era dedicato all'agricoltura, ma con un occhio del tutto nuovo e avanguardistico. Delle sue proposte tecniche, tutta la Sardegna, legata a un modo di coltivare tradizionale, aveva tratto vantaggio. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Sapreste trovare in questa scenetta ambientata nel Medioevo i 9 evidenti anacronismi, vale a dire oggetti o altro che certamente non potevano ancora esistere a quell'epoca? Giorgio Sisini ha un padre ingombrante, con il quale teme il confronto. Laureato al Politecnico, aveva dato un impulso straordinario all'agricoltura della sua isola, grazie alla meccanizzazione. E oltre che per gli interessi economici, si era distinto per le iniziative culturali. È proprio al conte Sisini, infatti, che si deve la fondazione del Rotary Club di Sardegna. Giorgio Sisini è troppo in gamba per accontentarsi di essere, per quanto orgoglioso di lui, soltanto il figlio di suo padre. Da lui, di certo, ha preso la mentalità aperta e la voglia di conoscere. Ed è per questo che, una volta terminato il liceo, si trasferisce a Pavia per studiare ingegneria chimica. È un bellissimo momento. Allo studio alterna lunghi viaggi in giro per l'Europa e ha una fame di esperienze così pronunciata da volersi sempre tenere informato di tutto. Per quanto la famiglia sia da sempre attenta a non creare pettegolezzi, con una riservatezza che fa dello stesso Giorgio un uomo del mistero, in uno dei pochi tributi sul Corriere della Sera è stato descritto con queste parole. Bell'uomo, alto, bruno, con baffi e sopracciglia foltissimi. Sembrava un attore dei film di avventura, una specie di texano del Mediterraneo. Quando Giorgio Sisini ha circa 30 anni, decide di concedersi un soggiorno a Vienna. Maestosa, aristocratica, vivace, è l'ideale per riposarsi dalle fatiche dell'università e nello stesso tempo divertirsi. Un giorno d'autunno, seduto dentro a un caffè, sta distrattamente guardando i passanti che camminano lentamente, attratti dalle vetrine del centro, quando gli capita tra le mani Das Ratzel, il settimanale austriaco di parole crociate che aveva cominciato ad uscire il 9 giugno del 1925 con in copertina un crosswords puzzle le cui caselle nere disegnavano il volto stilizzato di un uomo con il cappello. Adesso il numero che ha in mano Sisini è un po' diverso, anche se ha la stessa foliazione. L'illustrazione elabora ogni settimana la fotografia di una star dello spettacolo e stavolta c'è il volto di Lupe Vélez. Per Giorgio è una folgorazione. È in questo preciso momento che decide di fondare in Italia un corrispettivo di quel settimanale di enigmistica. L'idea è brillante e senza dubbio frutto di una personalità intraprendente. Quello che serve però, come per tutto, sono i soldi. Giorgio Sisini, perfezionista fino all'ossessione, serio e responsabile, chiede di poter usare i fondi di famiglia, certo che per la sua impresa riuscirà e sarà in grado di restituire piano piano fino all'ultimo centesimo. Si fidano di lui. Il 23 gennaio 1932, al costo di 50 centesimi di lire, esce il primo numero della Settimana Enigmistica. In copertina, come un omaggio, c'è lei, la diva Lupe Vélez. Parole crociate bifrontali. Il solutore tenga presente che molte parole non vanno scritte da sinistra a destra o dall'alto in basso, ossia come in un normale gioco di parole crociate, ma viceversa. Probabili canicole, le dune, le libellule, il cancro delle cellule, l'aria è mobile, la canzone memorabile, pettine delle vergini, le loro madri giovani e i rituali eroi. Destini incrociati. Inserite orizzontalmente nelle 13 righe le parole definite in A. Poiché lo schema è formato anche da 6 cornici concentriche, si dovranno leggere attorno a ciascuna altre parole, il cui inizio non è precisato, che rispondono invece alle definizioni B. A destini incrociati siamo nel 1932 e Giorgio Sisini, nobile sardo che ha ereditato da suo padre intraprendenza e coraggio, ispirandosi a una rivista che gli è capitata tra le mani a Vienna, ha fondato in Italia la Settimana Enigmistica. Il primo numero esce in edicola il 23 gennaio e ha 16 pagine, proprio come la sua sorella austriaca. Costa 50 centesimi e sulla copertina, ottenuta sagomando le caselle nere, c'è Lupa Vélez, attrice e ballerina messicana dalla vita tormentata. Ma la vera novità per i giocatori italiani è lui, il cruciverba, di cui Stefano Bartezzaghi parla così. Ecco, il cruciverba è il gioco enigmistico più diffuso al mondo e io ho lavorato sulla storia del cruciverba, ho scritto un libro al proposito e una delle sorprese che ho avuto era di quanto me lo aspettavo, ma non me lo aspettavo in quella quantità, quanto la determinante linguistica e più in generale culturale cambiasse proprio anche la forma del cruciverba. Il cruciverba inglese è completamente diverso da quello francese, che è completamente diverso da quello italiano, e ci sono fortissime differenze tra il cruciverba americano e quello inglese, in cui la lingua è praticamente la stessa, a parte per qualche dettaglio marginale, ma la cultura è diversa. Esce il sabato, recita la copertina, anche se la rivista viene distribuita anche qualche giorno prima. Dalla prima uscita le caratteristiche sono sempre le stesse. Non ha mai accettato pubblicità al suo interno. Si è a sua volta sempre servita poco della pubblicità per la sua diffusione. Ogni settimana la testata vede un colore alternato tra blu, verde e rosso. In copertina compare sempre uno schema di parole crociate con la foto di un personaggio del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, del teatro o del cinema. Sui numeri pari della rivista il personaggio è di sesso maschile, sui numeri dispari invece è di sesso femminile. Ogni settimana propone almeno un concorso, tra cui l'annuale Corsa Enigmatica a dicembre. L'unica interruzione risale agli anni della guerra, per 2 mesi e mezzo, nel 1945. Dopodiché si riprende con il numero 694, nel quale la spiegazione che viene data è semplice e stringata. Gli storici avvenimenti delle ultime settimane hanno impedito di pubblicare questo numero con la consueta regolarità. All'inizio a comprare la rivista sono soprattutto le famiglie italiane di cultura medio-alta che la abbinano ai quotidiani e ai settimanali di attualità. Eppure, nella nostra testa, l'immagine è quella del passatempo per tutti, delle nonne che la tengono sul comodino, di chi aspetta il tram e inganna la noia. Soprattutto di persone di tutte le età, che si divertono sotto l'ombrellone. Se Giorgio Sisini ha inventato la Settimana Enigmistica, l'uomo che ne ha fatto un cult è il papà di quello Stefano Bartezzaghi che ci ha accompagnato nel corso di questa storia. Il suo nome è Piero Bartezzaghi. Piero Bartezzaghi. Difficile nascere semplicemente Piero, più facile, come nel caso di Bartezzaghi, che incomincino a chiamarti così fin da piccolo dopo averti dato il nome Pietro. Quando il giocoliere delle parole viene alla luce, è una fredda giornata di novembre e corre l'anno 1933. Vittuone, provincia di Milano, conta oggi quasi 10.000 abitanti. Piero è un ragazzino sveglio, intelligente, responsabile, che cresce in una famiglia dialettofona. Papà è idraulico del comune di Milano, in casa non entrano né libri né giornali. Eppure la sua passione, neanche a dirlo, è l'enigmistica. Mentre i suoi coetanei giocano a pallone, lui, carta e penna alla mano, si diverte a inventare i più bizzarri rompicapi. Ha solo 13 anni quando invia il suo primo cruciverba alla Domenica del Corriere, popolarissimo settimanale fondato a Milano nel 1899 e chiuso nel 1989. Dal 1899, anno di uscita dello storico settimanale milanese, sono stati pubblicati 3200 numeri che con le storiche copertine illustrate dai disegnatori Walter Molino, Rino Ferrari e Achille Beltrame ha raccontato la cronaca italiana a cavallo tra 800 e 900. Le voci corrono veloci di redazione in redazione e Giorgio Sisini non è certo uno che si lascia scappare i talenti. Due anni dopo ha già messo alla prova Piero con una prima collaborazione che consiste nel compilare lo schema più semplice, quello di copertina. Posato, colto, con la testa sulle spalle, non pensa minimamente che possa diventare un lavoro vero e proprio e così diventa perito chimico. I tempi sono buoni per lavorare e non deve aspettare molto per essere assunto alla Montecatini, la storica azienda chimica italiana che poi verrà incorporata nella Edison, con la conseguente nascita del gruppo Montedison. Senza mai smettere di inventare definizioni, ci lavora per 7 anni, finché un giorno, non accontentandosi più di un solo cruciverba da questo geniale ragazzo, il direttore della settimana enigmistica Giorgio Sisini gli propone di assumerlo a tempo pieno. Bartezzaghi ci dorme su per qualche notte. In fondo si tratta di mollare un posto sicurissimo per la redazione di un giornaletto. Ma il sogno sta chiamando. Decide di mollare tutto per quelle caselle nere e bianche destinate a entrare nella storia. Per anni ho avuto il dubbio di fare un lavoro frivolo, poi però mi arrivavano dalla gente risposte sempre più numerose e confortanti. Tra i fruitori di una cosa così leggera ci sono persone che non immagineresti, che amano sfidare e sfidarsi con gomma e matita. Molti mi scrivono che devono spesso consultare l'enciclopedia. Io ho sempre sostenuto che la cultura non si costruisce attraverso queste nozioni, ma è anche vero che questo tipo di nozioni induce la gente a percorrere dei tragitti che altrimenti lascerebbero inesplorati. E mentre cammina lungo queste stradine, inciampa in qualcosa che poi nel tempo resta. Come al solito, la scelta di Giorgio Sisini, precursore dei tempi, è lungimirante. Ha bisogno di qualcuno che lanci la rivista, che la renda affascinante per tutti e non soltanto per le famiglie che già la abbinano agli altri giornali. Piero Bartezzaghi è l'uomo del destino. È il momento giusto perché il cruciverba prenda piede davvero, perché la gente ha voglia di divertirsi. Sta partendo il miracolo italiano. 11 marzo 1955. Viene presentata al pubblico la Fiat 600. 2 anni più tardi, il 4 luglio 1957, è la volta della nuova 500. Sono le prime auto per tutti, nate per il mercato di massa in Italia. Gli italiani si lasciano alle spalle le difficoltà del dopoguerra e scoprono il benessere. Una strada a senso unico. Con il boom cambiano costumi, linguaggio e stile di vita degli italiani. Dopo 20 anni di sperimentazioni più o meno riuscite, la televisione entra in tutte le case e oltre alle utilitarie alla portata di tutte le famiglie, arrivano lavatrice e frigorifero. La massa dei vacanzieri si muove tutta insieme il giorno dopo la chiusura delle grandi fabbriche e al primo casello delle nuovissime autostrade, carichi di valigie legate sul tetto della macchina con gli elastici, si è già tutti in coda a sbirciare cosa fa il vicino dentro l'abitacolo. Le vacanze al mare diventano una vera e propria conquista sociale, perché non sono più appannaggio dei soli ricchi. Le mete non sono molto esotiche. Pensioncina in Liguria o piccolo appartamento in affitto in Riviera, dove andarsi a ritirare dopo le serate passate sulla terrazza dello stabilimento balneare. Di giorno invece si sta in spiaggia. L'impiegato è vicino di ombrellone del noto professionista. L'artigiano mangia il gelato con l'imprenditore. E tra una chiacchiera e l'altra si stringono nuove amicizie, perché a contatto con la natura, tutti in costume da bagno, le differenze sociali si assottigliano. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1960 e la settimana esce con regolarità da ormai quasi 30 anni. Partorita dalla brillante mente del conte sardo Giorgio Sisini su ispirazione di un'analoga rivista austriaca, finora viene comprata in gran parte dalle famiglie di cultura medio-alta che la abbinano a quotidiani e altri settimanali. La società italiana però sta cambiando sull'onda del boom economico che porta a benessere, consumismo, vacanze. Per questo Sisini sente che è arrivato il momento di consacrare davvero il suo giornale. Chiama un giovane che collabora già da qualche anno e lo assume a tempo pieno. Si chiama Piero Bartezzaghi, è un chimico che molla tutto per inseguire il suo sogno, i cruciverba. Testa sulle spalle, ma forte attrazione per il lato ludico della vita, Bartezzaghi incomincia a elaborare ogni genere di gioco enigmistico che poi firma con vari pseudonimi, come Duca d'Alba, Zanzibar, Vittuone. Il suo gioiello, l'unico e inimitabile sul quale compare il suo nome, è il cruciverba a schema libero di pagina 41. Per idearlo ci mette da mezza giornata a un giorno e mezzo. E non rimane mai indietro con le scorte per i numeri futuri. Intanto sfida i tre figli Stefano, Paolo e Alessandro, che ora ha preso il suo posto a pagina 41. 100 lire di premio per ogni schema risolto. Io dico sempre che nelle famiglie feudali il primogenito ereditava il feudo, e il secondogenito andava a cavaliere, quindi all'avventura in giro per il mondo, e in effetti il mio fratello primogenito è lì nel feudo paterno, mentre io sono in giro per terre anche estranee, terre di conquista. Normalmente il terzo genito veniva avviato alla carriera religiosa. Ora, mio fratello Paolo è un giornalista della Gazzetta dello Sport, che in effetti esce la domenica, c'è qualcosa di religioso nel rapporto con lo sport in questo paese, mi pare che ci sia, quindi diciamo che abbiamo un po' ripetuto a modo nostro questa strutturazione familiare. Non è da tutti diventare un oggetto per antonomasia. Invece il mitico schema diventa semplicemente il Bartezzaghi. Piero, pignolissimo, cerca continuamente definizioni nuove, aiutandosi con i testi per controllare l'ortografia, ma appoggiandosi soprattutto alla sua memoria prodigiosa. Presto la rivista incomincia a diventare un appuntamento fisso per tutti, trasversale alle generazioni, al sesso, alle professioni. In poche parole, il sogno di Giorgio Sisini. Si sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credici un po' di più davvero. Una gita a... In quale località si trova ciò che le cinque fotografie riproducono? Il Bartezzaghi di pagina 41 è la svolta della settimana enigmistica. Giorgio Sisini vede realizzato il suo sogno perché tutti adesso, dai salotti alle spiagge, aspettano con trepidazione l'appuntamento più atteso, quello con questo schema mai ripetitivo. Le definizioni eleganti, le sorprese, la soddisfazione quando si riesce a completarne uno tutto intero e tutto da soli, nonostante le difficoltà di risoluzione. Eppure Bartezzaghi ha sempre negato di divertirsi ad essere cattivo con i lettori. Sarebbe sleale ricercare cose impossibili. Con il lettore bisogna combattere ad armi pari, barare profondamente scorretto, come nei romanzi polizieschi. Il cruciverba deve essere un miscuglio di semplicità e difficoltà. Il gioco deve risultare bilanciato. A parte le parole crociate in tutte le varianti possibili, nella rivista c'è spazio per tutto. Giochi minori come il bersaglio, i rebus, la pagina della sfinge, i quiz come vero o falso, l'edipeo enciclopedico. E poi ancora vignette, barzellette, casi polizieschi tipo se voi foste il giudice, raccolte di notizie curiose come leggendo qua e là e spigolature. Molti poi sono i personaggi che dagli anni 60 in poi sono entrati nelle case di tutti. La bisbetica Martina, il dispettoso Svaldo e Lillo, il tenero Giacomo, Diego e Norma, le vicende di Carlo e Alice, i coniugi delle ultime parole famose, il corvo parlante e la Susi, Gianni te lo dice, Anselmo e la sua famiglia, i pittori Penna e Nello e moltissimi altri. Giorgio Sisini muore nel 1972 senza clamore, con pochi tributi, ma tutti di infinita stima. Piero Bartezzaghi, invece, continua a lavorare fino a 2 ore prima di spegnersi, quando a 56 anni lo colpisce una terribile nemesi. Ironia della sorte, era il tumore al cervello, la malattia di cui aveva più paura, perché il suo incubo era perdere le sue facoltà mentali. Raccontava sempre, quasi a esorcizzare il mostro, che una sua lettrice, volendo capire se l'intervento chirurgico per un male analogo era andato a buon fine, appena sveglia dall'anestesia aveva chiesto ai medici: «Fatemi risolvere un Bartezzaghi». Schema dopo schema, il passatempo più sano ed economico l'ha reso immortale. Aguzzala, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. La settima, la settima, la settima dell'enigmistica. La settima, la ottima, la nonima e la decima. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.